Anche il re d'Inghilterra contro il tango. Quali onori per questa danza! I giornali, dice il lettore ipocondriaco, non s'occupano d'altro. L'imperatore di Germania li dichiara ufficialmente guerra. Il sovrano della Gran Bretagna esprime la sua avversione, diremo così, ufficiosa e, a quel che pare, tutta la gente che balla, nobili e borghesi, non vuole ballare che il tango. Esso costituisce dunque un avvenimento mondiale e appartiene alla storia. Vi immaginate lo storico ben informato tra 50 anni o fra un secolo, lo storico che documenta. E mentre la questione sociale ribolliva fra tutti i popoli civili, mentre gli scioperi generali infierivano e nei comizi popolari e nei parlamenti voci di allarme e di minaccia annunziavano prossima la grande tempesta, i ricchi borghesi, vecchia potenza di nobiltà e potenza nuova del denaro, si infiammavano per una danza importata dall'America meridionale detta il tango. Una danza, a quel che se ne può dedurre dai giornali e dai resoconti accademici del tempo, di carattere sensuale. Sovrani e prelati la condannavano. In Germania vi fu persino un ordine imperiale che vietava agli ufficiali di danzarla. Ma la passione del tango non cedette per ciò. E nelle ambasciate, nei saloni dei vecchi palazzi principeschi, nei saloni dei nuovi palazzi innalzati dai banchieri, le serate più fervide erano quelle in cui il tango accoppiava dame e cavalieri in movimenti assai più libertini che eleganti. Si rinnovava così, tra la stessa insensibilità generale, lo spettacolo della frivola società francese del secolo XVIII, avviata fra una pavana e un minuetto alla ghigliottina del terrore. E lo storico futuro avrebbe, come tutti gli storici, la sua parte di torto. Questo benedetto tango rappresenta con sufficiente esattezza un tempo di libertà. Di che cosa deve dunque accendersi la gente che ha quattrini e che vuole divertirsi? Poiché si può accendere di tutto, poiché i principi possono essere socialisti a loro piacimento e le grandi dame appartenere ad associazioni per la rivendicazione dei diritti femminili, poiché nulla più stupisce e nulla è più proibito, poiché la moda, capricciosa di stagione in stagione, nei suoi mutamenti, conserva soltanto alla morale la foggia delle maniche larghissime e meno si sente la religione e più si professa l'indulgenza plenaria. Poiché, insomma, se ne ha abbastanza di tutto e per molta gente che vive di larghe rendite, ieri è uno sbadiglio, domani un ignoto senza mistero e soltanto oggi conserva un fascino eccitante e caduco. Il tango trionfa, il tango ha più autorità dei giudizi reali e imperiali, il tango è l'illusione d'una curiosità, d'una novità, d'un divertimento. Il tango, insomma, ha questa suprema virtù. Il sapore dell'illecito, d'un illecito senza scandalo e senza vergogna, d'un illecito stuzzicante per il quale non è necessario arrossire. Lo storico futuro avrebbe dunque, come tutti gli storici, la sua parte di torto e la sua parte di ragione. Perché no? Dare al tango il carattere di indispensabilità in un tempo in cui l'indispensabile è un tema che travaglia decine di milioni di uomini, gente che soffre e gente che pensa, è sempre un po' ricordare, involontariamente, che quando più si crede d'essere padroni di se stessi, allora appunto si comincia ad avere sul serio dei conti da rendere.